اضحكوا يا ثورة قال لك ايه كلها مندسة اضحكوا يا ثورة I've wrote my personal dream in my Facebook profile. Il mio sogno l'ho pubblicato su Facebook. Il mio nome è Libertà. Sono nata in Tunisia, sono cresciuta in Egitto e ho studiato in Yemen. Ho lottato per sopravvivere in Bahrain e ho combattuto in Libia. Sono fiorita in Siria e ho realizzato il mio sogno in Palestina. Ho costruito il mio paradiso in tutto il mondo islamico. Questo è il mio sogno più grande. Dal dicembre 2010, uno straordinario movimento rivoluzionario scuote vari paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, prendendo il via dalla Tunisia. Milioni di cittadini chiedono riforme politiche, sociali, economiche e la cessazione dei dispotismi in nome della libertà e della democrazia. Scioperi, manifestazioni e sit-in sono le comuni forme di resistenza civile utilizzate contro la repressione dell'individuo nelle singole società. La risposta dei governi autoritari è sanguinosa e violenta. Anche in Egitto scoppia la rivolta, eredità di lotte operaie che da anni percorrono il paese. Le richieste di democratizzazione si uniscono alla necessità di porre fine ad uno stato di emergenza militare in atto da più di 30 anni. Il presidente Hosni Mubarak, al suo quarto mandato, è alla guida del paese dal 1981. Comandante dell'esercito nella guerra contro Israele che restituisce all'Egitto la penisola del Sinai, da eroe nazionale subentra alla guida del paese dopo l'assassinio del presidente Sadat. Il suo governo però si trasforma ben presto in dittatura. La corruzione del potere e la politica economica adottata impoveriscono la popolazione a favore di una ricca minoranza, mentre le controverse scelte negli affari internazionali fanno crescere il dissenso interno. Il giorno dopo lo scoppio della rivoluzione in Tunisia abbiamo ospitato una squadra di calcio tunisina. Siamo entrati nello stadio con uno striscione che diceva «Il popolo tunisino è libero, benvenuti». Non c'era l'atmosfera di una competizione sportiva, perché quel giorno, nello stadio del Cairo, si celebrava la liberazione del popolo tunisino. Questo è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Mi chiamo Khaled El Akkad, ho 26 anni. Sono un ultra egiziano ed ho partecipato alla rivoluzione. Lavoravo come impiegato di banca, ma sono stato licenziato proprio perché sono sceso in piazza. Sono stato arrestato, ho subito un processo militare e mi hanno giudicato colpevole. Noi egiziani abbiamo vissuto l'oppressione sulla nostra pelle, in ogni aspetto della nostra vita. C'è sempre stata una sorta di separazione tra gli strati sociali. Le diverse classi non hanno mai avuto gli stessi diritti e tu non potevi far altro che convincerti che ciò era giusto. Dovevi tenere gli occhi bassi, perché se avessi provato a dire qualcosa poteva finire male. Mi chiamo El Sayed Abbas Raje, vengo da Souaq, nell'Alto Egitto. Ho 26 anni e lavoro come traduttore freelance. Mia madre mi ha dato il nome di Re Farouk perché sono nato il giorno in cui lui si è sposato. Sono un patriota e un ribelle. Sono un rivoluzionario perché non sopporto le ingiustizie. Sono a Tahrir dal 25 gennaio 2011, fermo al mio posto. Ci ho anche dormito in piazza. La rivoluzione è nata su Facebook e gli appelli si sono diffusi così rapidamente che abbiamo iniziato a radunarci fino ad arrivare a milioni di persone. La sommossa popolare egiziana esplode in varie città del paese il 25 gennaio 2011, giorno della festa nazionale della polizia. Lo scopo della rivolta è inizialmente quello di protestare contro la brutalità delle forze dell'ordine. Uno dei primi slogan dell'insurrezione è «Siamo tutti Khaled Said». Khaled Said, ragazzo, blogger, appassionato di musica rap, selvaggiamente massacrato di botte da due agenti di polizia nelle strade di Alessandria, alcuni mesi prima dello scoppio della rivoluzione. Quella che stiamo ascoltando in una sequenza di versi è la sua voce. La pagina Facebook a lui dedicata è diventata uno dei catalizzatori della rivoluzione, confermando l'importanza del social network come strumento di divulgazione del dissenso. My name is Noha Tariq. Mi chiamo Noha Tariq e ho 25 anni. Mi sono laureata in economia e scienze politiche e lavoro come analista politico. Sono musulmana, non faccio parte di alcuna organizzazione politica, ma sono un attivista. Il 26 e 27 gennaio 2011 ero in piazza a manifestare davanti al sindacato degli avvocati. I cellulari non funzionavano. Eravamo isolati dal resto del mondo. Alle 3 o alle 4 del pomeriggio il cielo è improvvisamente passato dal blu al grigio per la quantità di gas lacrimogeni. Abbiamo sentito urlare. Per noi significava l'inizio degli scontri. Anche noi abbiamo ripetuto: la rivoluzione era finalmente iniziata. Un gruppo consistente di manifestanti stava arrivando dall'altra parte della piazza e correvano, e la polizia scappava. Sebbene l'aria fosse satura di gas lacrimogeno ed io non riuscissi più a respirare, quello è stato un momento incredibile, forse il più magico di tutta la mia vita. Mi ha sconvolto vedere la polizia ignorare gli uomini e accanirsi contro le donne. Anche io sono stata picchiata dall'esercito in quel giorno terribile. Non sono mai stata tanto umiliata in vita mia. Eravamo sul ponte Qasr al-Nil e stavamo cercando di raggiungere la piazza. C'è stato un vero e proprio massacro. Le persone morivano una dopo l'altra. È stato terribile. Dovunque mettessi i piedi c'era qualcuno in fin di vita. Ero molto triste, ma allo stesso tempo ero felice di vedere come, nonostante tutto, la gente continuasse ad andare avanti. Mi chiamo Nada Zatuna, sono originaria di Aswan, anche se non ci sono mai stata. Vivo al Cairo, sono una filmmaker, studio russo. Sono piccola e magra, troppo magra. Ho 23 anni, ma non ne dimostro più di 16. Mi hanno accusato di aver appiccato il fuoco al Ministero degli Interni e dell'omicidio di 7 soldati. Io ero lì che sanguinavo e ridevo. Era ovvio che quando è scoppiata la rivoluzione noi ultras saremmo stati coinvolti. Ci hanno sempre trattato male negli stadi, proibendoci di esporre striscioni. Ma noi non abbiamo paura della polizia. Siamo psicologicamente preparati ad affrontarla, perché siamo abituati agli scontri. Non siamo dei violenti. La violenza è una reazione agli assalti delle truppe di sicurezza. Quando il nostro sangue viene versato, diventiamo più forti e più determinati. Ci stringiamo l'un l'altro. La reazione della polizia e dell'esercito è stata molto violenta. Ci hanno assalito, ci hanno maltrattato e noi abbiamo reagito solo per difenderci. E mentre ci difendevamo, abbiamo capito che eravamo più forti. Allora ci siamo detti: perché non provare ad accelerare questo processo? Perché non chiedere le dimissioni di Mubarak? L'assalto repressivo delle forze dell'ordine provoca la morte di centinaia di manifestanti e il ferimento di migliaia. Hosni Mubarak non accetta la volontà del popolo e in un discorso ufficiale, così, si rivolge agli egiziani. Nel nome di Dio misericordioso, miei cari concittadini, mi rivolgo sia a voi che siete in piazza Tahrir che al resto della nazione. Vi dico innanzitutto che il sangue dei morti e dei feriti non sarà dimenticato. Vi confermo che non mi dimetterò, ma cercherò di perseguire i responsabili e processare tutti coloro che hanno commesso crimini contro i nostri giovani. Le parole di Mubarak sono accolte dall'indignazione dei manifestanti accampati a Tahrir. La folla in piazza si toglie le scarpe agitandole in aria come segno di disprezzo verso il presidente. Era la guerra. Ho respirato i lacrimogeni e sono svenuta. I medici mi hanno fatto rinvenire con dell'aceto. Poi ho preso la mia telecamera, quella piccola, e sono andata in prima linea. Volevo riprendere i volti dei poliziotti che sparavano sui manifestanti. A un certo punto sei o sette soldati mi sono saltati addosso. Mi hanno picchiato coi manganelli, mi hanno strappato la telecamera dalle mani e l'hanno distrutta. Continuavano a colpirmi alla testa. Non è divertente in sette contro una ragazza. Il mio posto in piazza Tahrir era in prima linea, insieme agli ultras e ai miei compagni. Noi siamo in grado di respingere qualsiasi tentativo di sgomberare la piazza. In piazza c'erano anche bambini, ragazze e anziani. E l'unico obiettivo di chiunque fosse in prima linea era quello di difendere la piazza. Ero in via Muhammad Mahmoud e davanti a me c'era un poliziotto, un ufficiale credo. Non ho visto i gradi, ma aveva uno scudo, indossava il casco e ovviamente impugnava la sua pistola. Me l'ha puntata contro, tra noi c'erano meno di 2 metri. È incredibile come me l'abbia puntata direttamente alla testa. Mentre mi giravo per scappare, il proiettile mi ha colpito di striscio alla nuca. È chiaro che aveva intenzione di ammazzarmi, ma sono stato fortunato. Sono sopravvissuto. Ero seduto in piazza quando è arrivata una donna. Mi ha salutato e io le ho risposto. Poi mi ha detto: «Sei in piazza con questo cartello, sotto il sole. Come fai per mangiare, per bere?» Le ho spiegato che ho molta pazienza e che Dio è con me. E lei: «Prendi questi panini», e me ne ha dati 2. Questa è la rivoluzione e questi sono i veri ribelli di Tahrir. Il 12 febbraio 2011 il vicepresidente egiziano Omar Suleiman appare in televisione. L'intensificarsi delle spinte rivoluzionarie e l'aumento delle pressioni internazionali hanno reso la decisione inevitabile. Miei cari concittadini, visto il difficile momento che la nostra nazione sta attraversando, il presidente Mohammed Hosni Mubarak ha deciso di dimettersi da presidente della Repubblica, delegando il Consiglio Supremo delle Forze Armate alla guida del paese. Piazza Tahrir, ormai luogo simbolo della rivolta, esulta celebrando la fine del regime. Quando Mubarak si è dimesso, dormivo nella mia tenda. Un amico è venuto a svegliarmi per dirmi che Omar Suleiman era in TV e stava dando la notizia. Eravamo così felici che abbiamo pianto di gioia. Durante i 18 giorni della rivoluzione, a Tahrir c'era una grande tolleranza tra musulmani e cristiani, tra donne velate e donne a volto scoperto, tra conservatori e progressisti. Ricchi e poveri lottavano insieme. Chiedevamo pace, giustizia e pane. Tahrir è un luogo di gloria, ma non è solo un luogo, è una sorta di sogno. Abbiamo fatto enormi sacrifici per liberare l'Egitto da Mubarak. Sono morte molte persone ed è stato versato molto sangue. Molte mogli sono rimaste vedove. Padri e figli sono stati uccisi, ma l'Egitto ora è di nuovo nostro. Se ci ripenso, mi accorgo di come non avessimo ancora la consapevolezza che Mubarak e lo SCAF erano la stessa cosa. Ma quello che importava era che Mubarak non c'era più. Credevamo che da quel momento in poi tutte le richieste della rivoluzione sarebbero divenute realtà. Lo SCAF, Consiglio Supremo delle Forze Armate, è alla guida del governo di transizione. Il presidente dell'autorità militare è il maresciallo Tantawi, controversa figura del passato regime, che ora ricopre ad interim anche le cariche di ministro della difesa e capo dello Stato. Alla vigilia delle prime elezioni presidenziali dalla fine della dittatura, l'Egitto è ancora scosso da moti di rivolta. I metodi utilizzati dalle forze armate per soffocare la protesta non sono dissimili da quelli usati dalla dittatura di Mubarak. Emblematico è il massacro di Maspero, avvenuto il 9 ottobre del 2011, quando una manifestazione di fronte alla sede della televisione di Stato viene repressa nel sangue. 27 morti in una sola notte sono il bilancio di una strage che diviene tragedia nazionale. Ogni volta che la gente capisce che sei un manifestante ti dice: perché fai questo? Abbiamo già cacciato Mubarak. L'economia è in crisi per colpa vostra. Basta manifestazioni. Vogliamo pace, vogliamo stabilità, che poi è la stessa cosa che ci raccontava Mubarak. Oggi in Egitto i rivoluzionari sono una minoranza e questa è la cosa più frustrante. Anche la mia famiglia è contro di me. Vado in piazza a cantare. Abbasso il regime militare. Questo è quello che cantiamo. Noi non siamo un esercito e non vogliamo essere guidati da militari. Sono un civile e voglio essere governato da altri civili. Queste parole racchiudono in sé l'idea del superamento delle paure che ci opprimevano e la rottura delle catene che ci tenevano stretti. Questo canto per me significa libertà. Ma è una ragazza. Perché se ne va in giro con i maschi? Perché vuole fare la rivoluzione? Questa è la prima cosa che mi hanno detto quando mi hanno arrestata. E poi hanno iniziato a picchiarmi. Ho provato a dire basta. Alla stazione di polizia di Abdin c'era un ufficiale. Era in piedi davanti a me e continuava a dire: portatela di sopra che ce la scopiamo. Sembrava così contento. Quando 7 soldati cercano di picchiarti, sembra che vogliano ucciderti e tu sei lì da sola. E loro hanno armi, sfollagente, bastoni elettrici. Allora ti senti più forte di loro. Mi dispiace per loro, perché io ora sono più forte. Non lasceremo questa piazza fino a che i responsabili della morte dei nostri martiri non verranno processati. Devono essere processati, perché quei ragazzi erano i figli dell'Egitto. Erano in piazza solo per manifestare. E nessuno di loro era armato. Siamo a gennaio, i primi giorni di gennaio del 2012. E fino ad oggi non è passato mese senza che ci fossero martiri. Persone ammazzate dall'esercito, feriti, gente torturata. C'è stata una chiara violazione dei diritti umani in Egitto, che è arrivata perfino a controllare la verginità delle donne. L'esercito si è macchiato delle peggiori atrocità di guerra, cose che neanche potete immaginare. Il popolo di Tahrir torna ad affollare la piazza, reclamando un cambiamento radicale rispetto al passato regime. A novembre, Kamal Ghansouri, economista e premier durante il governo Mubarak, è designato nuovamente primo ministro d'Egitto. I cittadini, offesi dalla notizia, reagiscono occupando l'ingresso del palazzo della Camera e impedendo a Ganzuri l'accesso nell'edificio dall'entrata principale. Gli scontri si inaspriscono. Da un lato il lancio di pietre, dall'altro quello di pallottole e potentissimi gas lacrimogeni di devastante effetto sul sistema nervoso. Durante una conferenza stampa, il generale Tantawi nega l'utilizzo eccessivo della forza da parte di esercito e polizia. Siamo costernati per quanti sono morti. Erano figli della patria. Questi sono incidenti che ci riportano al passato. Vogliamo offrire le nostre più sincere condoglianze ai familiari delle vittime. Nella grande rivoluzione del 25 gennaio, il popolo ha chiesto libertà e democrazia. Noi non abbiamo mai sparato contro i nostri concittadini. L'esercito ribadisce di essere parte del popolo egiziano. I sit-in alla Camera e a Piazza Tahrir vengono brutalmente sgomberati. Le tende bruciate, le riserve di medicinali disperse, alcuni dottori degli ospedali da campo arrestati e i manifestanti picchiati in modo selvaggio. Particolarmente violento è il trattamento riservato alle donne. Una ragazza, denudata e malmenata dagli agenti, diventa ennesimo simbolo della protesta. Ho qualcosa da dire a Tantawi. La tua violenza ha superato anche quella di Faraoni. Hai ammazzato gente innocente. Hai trascinato una ragazza in strada e l'hai denudata. Era come se fosse mia figlia, mia sorella. Non riesco né a bere né a mangiare quando vedo queste cose. Ecco perché ti dichiaro guerra con le parole che ho scritto sul mio cartello. Cosa avresti fatto, Tantawi, se al suo posto ci fosse stata tua figlia? Ogni volta che racconto questa storia a voce alta, mi convinco sempre di più che tutto ciò mi è successo realmente. Riesco piano piano a capacitarmene. Tutto questo mi ha cambiato molto. Ora credo di più in me stessa e ritorno a Tahrir per stare con la gente, per cantare. Non abbiamo altra possibilità che andare avanti. La rivoluzione ci ha insegnato ad amare il nostro paese. Prima della rivoluzione odiavamo l'Egitto perché eravamo oppressi, soffrivamo l'ingiustizia e i soprusi. Ma oggi provo un senso di appartenenza all'Egitto. Oggi mi sento parte di questo paese. A volte mi sento depresso e questo senso di fallimento può durare giorni. Poi però la speranza torna a riempirmi. Se perdessi la speranza, non credo che potrei continuare ad essere parte di questa rivoluzione. Prima della rivoluzione non pensavo di avere alcuna responsabilità. Vivevo solo in funzione di me stesso. Ora dedico il mio cuore e la mia vita alla causa egiziana. Non credo che noi assisteremo ai cambiamenti sociali e culturali che avverranno in Egitto. Sarà la prossima generazione, o forse quella ancora dopo, che potrà vederli. Però noi siamo quelli che abbiamo innescato questo processo. Scendo in piazza per un solo motivo. Se è vero che è mia madre che mi ha partorito, prima di lei è stato l'Egitto a darmi alla luce. Mangio cibo egiziano, guardo il suo sole, respiro la sua aria, cammino per le sue strade, ammiro la sua natura. Vivo con i miei amici e la mia famiglia sulla sua terra. Questo è il motivo per cui dovremmo rispettare l'Egitto. Io dico, l'Egitto appartiene alla rivoluzione.